porterò con me la mia fantasia e in riva al mare si ballerà. Con la mia voce e le mie emozioni toccheremo il cielo insieme noi e sotto tutte quelle stelle dolcemente il cuore ti sfiorerò. Sarò con te col mio sentimento, le mie canzoni ti donerò, ti trascinerò come fossi vento dentro una notte di magia. L'Italia siamo noi. Sempre più travolgente, con la mia energia ti regalerò. Ogni volta poi sarà sempre festa, con me la notte non finirà. Con tutta quanta la mia passione, dentro il mio mondo ti porterò. Sarà sempre un grande sai, voleranno, suoneranno mille melodie, abbracciati tutti in unico ballo, fino a quando l'alba arriverà. L'Italia siamo noi. Siamo noi.